Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Il rapporto con le banche è un'altra nota dolente dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alle Mafie, che ha da poco presentato la relazione di fine 2011 al Parlamento. Il 65% dei beni è gravato da ipoteche e l'agenzia, per questo motivo, ha già spedito alle avvocature dello Stato nelle varie regioni oltre 200 istanze per chiedere immediatamente l'accertamento della buona o della malafede degli istituti di credito che concessero al mafioso il credito da porre su quell'immobile. Questo è solo l'inizio del contenzioso, il resto è da operetta e arriva dopo che agenzia e banca interessata stabiliscono il contatto per la transazione amichevole. Con alcuni istituti l'esito è stato positivo, afferma il direttore dell'agenzia Giuseppe Caruso, nel senso che gli istituti riescono ad abbattere definitivamente il credito che avanzano anche a seguito della mia minaccia di non poter vendere il bene e di doverlo blindare. Quindi non possono né assegnare né vendere il bene, ma loro ovviamente possono dimenticarsi il credito. Artifici bonari che nulla possono in alcuni casi, come quello del Caffè de Paris di Via Veneto a Roma, l'ombelico della dolce vita di un tempo. Dopo il sequestro, l'amministratore giudiziario ricevette da una banca su cui aveva il conto corrente la revoca immediata del credito che era inattivo, seppur di poche centinaia di euro. Nelle terre di mafia poi accade ben di peggio e in questo caso le banche non c'entrano nulla. Quando un'azienda viene sequestrata, i clienti revocano le commesse e i costi lievitano in maniera esponenziale. Ricollocare l'impresa nel circuito legale diventa una fatica immane, perché quasi sempre i mafiosi effettuano pagamenti in nero. Molto, da questo punto di vista, potrebbe fare l'albo degli amministratori giudiziari, da riconvertire da semplici guardiani in promotori di sviluppo economico, ma sebbene promesso dal precedente governo, non è mai arrivato. Buona vita e a domani.